24 mattino estate con Irene Zerbini. Cose dell'altro mondo, è il caso di dirlo. Buona giornata, 16 minuti dopo le 7. Buona giornata da tutta la redazione di Radio 24. Cose dell'altro mondo, un film di Francesco Patierno che ha scatenato un fiume di polemiche ancora prima di uscire nelle sale. Quindi nessuno tra chi polemizza e chi risponde alle polemiche, tra chi fa interrogazioni parlamentari e chi le subisce, può dire di averlo visto. Comunque, Diego Abate Antuono è il protagonista di questo film e veste i panni di un imprenditore veneto. Questo imprenditore sogna, se non un mondo, quantomeno un'Italia senza immigrati. Il tutto naturalmente in chiave ironica e caricaturale. Questo non è piaciuto ad alcune frange leghiste che hanno invitato al boicottaggio del film. Uscirà il 3 settembre. E questo film è ritenuto altamente denigratorio nei confronti della cultura veneta. Ora, al di là delle polemiche regionaliste che in questi giorni hanno appassionato diverse persone, la pellicola solleva un problema di fondo e questo problema non è da poco. L'economia italiana, in particolare quella delle regioni più ricche, potrebbe reggere a una mancanza di manodopera straniera? Gli immigrati sono indispensabili al sistema Italia o li facciamo entrare per spirito d'accoglienza? Accogliamo bene o abbiamo bisogno? Di tutto questo parleremo a 24 mattino alle 8:30 con Diego Abate Antuono e altri ospiti. In primo piano. Ora però la lettura dei giornali. Ringrazio, saluto, buongiorno, bentornato Gianfranco Fabi. Buongiorno, anche oggi mi tocca fare gli straordinari. La staffetta. La staffetta, sì, solo per oggi, solo ancora per oggi per i giornali del mattino. Poi ci ritroveremo comunque anche alle 9, parleremo anche oggi a 9 in punto, parleremo delle misure per affrontare la crisi, liberalizzazioni, privatizzazioni, pareggio di bilancio nella Costituzione, saranno questi i temi. 9 in punto, li affronteremo con grandi esperti dell'argomento. Qual è la strada da seguire? Immagino che frammenti di questa discussione si ritrovino anche sui quotidiani di oggi. Beh, i quotidiani di oggi direi che sono quasi completamente dedicati, almeno nelle prime pagine, proprio allo stato dell'arte dell'economia internazionale, con gli Stati Uniti in primo piano dopo il downgrading, dopo l'abbassamento del rating da parte di Standard & Poor's per il debito americano, ma anche l'Europa in altrettanto primo piano, perché l'Italia è stata messa appunto un po' sotto tutela dall'Europa e la Banca Centrale Europea ha annunciato ufficialmente che acquisterà i titoli di Stato italiani e spagnoli per difendere questi titoli, per difendere i mercati, e questo è da una parte un segno di fiducia nell'Italia, nel senso che se li difende vuol dire che sono titoli che possono essere difesi, e dall'altra però è un segno di tutela, perché vuol dire che l'Italia ha comunque bisogno dell'aiuto europeo, cosa che tutti sappiamo, e quindi anche questo è un elemento da mettere in evidenza, come metto in evidenza un po' sottolineando i due aspetti i giornali di oggi. Un piccolo salvagente per evitare un naufragio che probabilmente, speriamo, non ci sarà. Seguiamo con estremo interesse. Gianfranco, ci ritroviamo dopo. Grazie Irene Zerbini. Allora, il Corriere della Sera, la BCE in difesa di Italia e Spagna, la Banca Europea e quelle nazionali dell'area euro pronte a acquistare i titoli di Stato per arginare la speculazione. Merkel e Sarkozy incalzano Roma. Bene, le misure vanno attuate velocemente. C'è un commento di Alberto Alesina in cerca di leader, lo vedremo tra poco. Il giornale parte da questo tema, appunto dall'intervento della BCE, con un'altra prospettiva. Dice: la BCE promuove l'Italia, avvia l'acquisto di titoli di Stato. Il titolo forte del giornale è Ossessione governo tecnico, i poteri forti tentano il blitz. Mario Monti e il Corriere attaccano Berlusconi, così i furbetti dei salotti vogliono ribaltare il paese. Ecco, secondo il giornale, il fatto che la BCE intervenga per sostenere i titoli di Stato italiano è un dato positivo, un fatto di promuovere appunto l'Italia. Questo, l'avevo detto, è una parte del tema. Sicuramente la BCE promuove l'Italia, ha detto che sono positive le misure italiane, però indubbiamente l'Italia ha anche bisogno di protezione, e questo capita appunto per paesi che non sono particolarmente forti, capita per l'Italia e per la Spagna, e questo dimostra appunto che l'Italia ha bisogno di protezione. Il giornale ha un titolo dedicato alla politica, di un commento di Vittorio Feltri, tecnocrati senza un voto, e un titolo più economico di Nicola Porro, vice direttore l'Assist dell'Europa. Li vedremo anche questi tra poco, anche per dare spazio all'altra visione, direi completamente opposta, che è quella dell'Unità, che dice: l'ordine di Merkel e Sarkozy, schiaffo all'Italia, Germania e Francia riforme subito, via libera della BCE all'acquisto dei BTP. Ecco, quello che per il giornale diventa una promozione per l'Italia, per l'Unità diventa uno schiaffo all'Italia. E l'editoriale non firmato del direttore: ora dite la verità, il governo deve scoprire le carte e dire la verità, siamo in pericolo, siamo bersaglio della speculazione, siamo commissariati dall'Europa. Questo è quanto dice l'attacco dell'articolo di fondo dell'Unità. La Stampa: BCE intervento sui mercati, attesa per la riapertura delle borse, Berlusconi deciso ad accelerare, e si pensa a un giro di vite sulle pensioni di anzianità. Ecco, bisogna dire che tutti i giornali sono ricchi di ipotesi di lavoro per ulteriori tagli, per ulteriori interventi, per limitare appunto la spesa pubblica, per riportare in equilibrio i conti dello Stato. Quello delle pensioni è un argomento ricorrente, i tagli alle pensioni di anzianità è quello su cui si sofferma la Stampa di oggi. Intervento sui mercati della BCE, dice appunto la Stampa, la Banca Centrale Europea sarebbe pronta a comprare i nostri titoli del Tesoro, Germania e Francia, ma il governo italiano attui subito le misure annunciate. Anche il Secolo XIX apre con il tema appunto della crisi economica e politica ovviamente in controluce. Italia accelera le misure, BCE è pronta a comprare BTP, ma Roma deve attuare subito le misure. Francia e Germania avvisano Berlusconi della notte vertice G7 per evitare il lunedì nero. E oggi ovviamente sui mercati finanziari c'è una grande attenzione, sia per l'effetto appunto che potrà avere l'abbassamento del rating da parte di Standard & Poor's sul debito americano, sia per l'effetto di questi interventi della BCE, per gli ulteriori interventi decisi venerdì sera dal governo italiano per affrontare appunto la crisi. E il Secolo XIX spiega: via libera l'acquisto di titoli di Stato italiani e spagnoli da parte della BCE. Secondo le notizie che sono filtrate in serata dal summit tra i leader europei del G20 e la Banca Centrale Europea, l'accordo per un acquisto massiccio sarebbe stato raggiunto, certificando così che Italia e Spagna sono debitori comunque affidabili. Ma tutto questo non è stato concesso a costo zero. La Francia e la Germania, forti come non mai all'interno della debole Europa, hanno imposto la loro condizione, peraltro già avanzata dalla BCE. Gli obiettivi della manovra finanziaria, 47 miliardi, varati il mese scorso dal governo Berlusconi, vanno anticipati di un anno. Per l'Italia significa arrivare al pareggio di bilancio del 2013 e non del 2014. Questo appunto spiega la decisione appunto del governo annunciata venerdì sera di questo anticipo della manovra che sarebbe stata richiesta dall'Europa per consentire poi in cambio appunto degli interventi in difesa degli interessi sui titoli di Stato. Ecco, sui giornali poi torneremo a parlare ovviamente della manovra, ci sono comunque altri argomenti, due spiccano tra gli altri. Da una parte la Gran Bretagna, il fatto che per uno scontro di carattere razziale, c'è stata una guerriglia nel Bronx a Londra, e su alcuni giornali anche l'allarme bomba al Colosseo di Roma, un quartiere di Londra messo a ferro a fuoco, tensione tra polizia e dimostranti, altri sobborghi metropolitani a rischio esplosione e il governo in ansia per l'immagine del paese, della capitale, a un anno delle Olimpiadi. Questo era il Secolo XIX. Anche sulla Stampa c'è una grande foto del quartiere di Tottenham che si è svegliato con le ferite dopo una lunga notte di scontri che hanno sono stati suscitati appunto dall'uccisione da parte della polizia di un immigrato. Londra sotto shock per una notte di guerriglia urbana. Questa è la Stampa che dedica due pagine interne all'argomento, ricordando anche altri casi in cui le periferie si sono infiammate, come a Parigi nell'ottobre del 2005, a Los Angeles nell'aprile del 92, a Melbourne nel dicembre del 2008. Scontri appunto nati quasi spontaneamente, sono stati innescati da un incidente tra la polizia e gli immigrati, che poi sono sfociati in una rivolta popolare. Parlavamo anche della bomba al Colosseo, sgombrata l'area dell'anfiteatro dai turisti, aperta un'indagine della Procura di Roma, allarme e bomba, evacuato il Colosseo. È ovviamente il Messaggero di Roma che mette in prima pagina questa notizia. Allarme e bomba al Colosseo, gli artificieri hanno trovato il finto ordigno, un barattolo di latta avvolto con nastro adesivo per sorreggere una batteria da 9 volt collegata a due fili elettrici neri dentro acqua raggia. È accaduto ieri poco dopo le 16, quando all'interno del Colosseo si trovavano un migliaio di turisti. L'ordigno non poteva esplodere, ha spiegato il sindaco Gianni Allemanno, che ha parlato di uno scherzo di cattivo gusto, dell'azione di un pazzo, e comunque va rafforzata la sicurezza. Tutti in fuga dal gigante indifeso, è il commento di Maria Lombardi sul Messaggero. Quindi vi dicevo, la crisi in primo piano. Altre notizie: la Gran Bretagna, il Colosseo, San Patrignano sulla Repubblica dà conto di questo passaggio di consegne tra Muccioli, l'uscita di Muccioli, del figlio di Andrea Muccioli, Vincenzo Muccioli, il figlio di Vincenzo Muccioli, Andrea Muccioli, scusate, dalla comunità di recupero dei tossicodipendenti vicino a Rimini. Da ex pollaio ad azienda, la metamorfosi di San Patrignano è il titolo di Repubblica. Sul Sole 24 Ore, oltre alle notizie sulla crescita e il risparmio, sul peso dei tagli e sullo sviluppo, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, gli effetti più rilevanti per imprese, infrastrutture e ricerca. C'è anche un'analisi del risparmio: i depositi soffrono in mezza Italia, a Crotone il calo peggiore, meno 15%, tra i migliori Rimini, L'Aquila e Biella. E quindi un'analisi nelle pagine interne con un commento di Fabrizio Galimberti, che vedremo, su come gioca il risparmio. In primo piano. Buongiorno ancora da Gianfranco Fabi, eccoci con le prime pagine dei giornali. Abbiamo parlato già nella prima parte del fatto che tutti i giornali in pratica aprono con gli effetti della crisi economica, con il fatto che la Banca Centrale Europea acquisterà i titoli italiani, e questo darà un sostegno, dovrebbe dare un sostegno all'economia e alla necessità di fare riforme in Italia. Prima di ritornare a parlare di crisi, vi segnalo però un argomento che comunque è passato un po' in secondo piano, ma è importante. È quello della crisi in Libia. Il Foglio Quotidiano, con un editoriale firmato dall'Elefantino, chiede di arrivare a una soluzione, così come richiesto peraltro ieri dal Papa. Leggiamo la conclusione dell'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio Quotidiano. Il governo italiano si è scioccamente compromesso con questa follia, cioè con l'intervento in Libia. Avrebbe potuto fare come i tedeschi, dare solidarietà, ma senza l'impegno diretto, mediare con un regime con il quale aveva appena stipulato un trattato d'amicizia fondato sulla fine del contenzioso coloniale. Aveva mille ragioni di principio e di realpolitik per argomentare con forza il suo diniego alle ragioni flebili e persino futili di Sarkozy e compagnia. Ora, giustamente, Franco Frattini, ministro degli esteri di questo paese, cerca di guidare una exit strategy. Chiede commissioni d'inchiesta sull'incredibile omissione di soccorso in mare da parte della nave della NATO. Definisce settembre, cioè domani, come un mese cruciale per la fine della campagna, ma ci vorrebbe l'impegno diretto di Berlusconi, che avrebbe tutta l'autorità per dire: siamo stati leali fino all'impossibile, ora basta, è quanto chiede Giuliano Ferrara. E un intervento di mediazione lo chiede anche il Papa, ed è da notizia Luigi Accattoli con un'opinione, un intervento sul Corriere della Sera, così come Andrea Tornielli sulla Stampa. Libia, la forza delle armi non risolve, ecco un Papa pragmatico, il titolo di Accattoli. Per Libia e Siria, il Papa chiede la pace senza armi, è il titolo dell'articolo di Andrea Tornielli. Leggiamo un passaggio di Accattoli. Il Papa ieri ha chiesto il rilancio di un piano di pace per la Libia, dove la forza delle armi non ha risolto la situazione. Colpisce, ma suona anche convincente, il carattere pragmatico del monito, per nulla basato su imperativi categorici, ma commisurato a un'emergenza forse indecifrabile, certo resistente a soluzioni di forza. Le poche parole sulla Libia erano state precedute dell'appello del Papa da altre, ispirate ad altrettanto realismo, sui drammatici e crescenti episodi di violenza in Siria. Si direbbe che la primavera araba, continua Accattoli, così difficile da interpretare, induca un di più di cautela la predicazione papale, che abitualmente si ispira agli assoluti del non uccidere e del rifiuto delle armi come prima via per affrontare emergenze internazionali. Fin dall'inizio è stato decisivo il richiamo alla prudenza venuto dalle comunità cristiane sparse in quel mondo. Va ricordata per la Libia la voce critica riguardo all'interventismo franco-anglo-americano venuta già in marzo dal vicario episcopale di Tripoli, Innocenzo Martinelli. L'operazione è partita troppo in fretta, mentre sarebbe stato opportuno tentare anche la via diplomatica, spero in una resa, ma credo che Gheddafi non cederà. Erano le parole di Martinelli ricordate da Accattoli. E Andrea Tornielli appunto allarga l'osservazione anche alla Siria. Con la Siria in ogni caso la reazione occidentale sembra al momento essere il segno totalmente opposto rispetto a quanto accaduto per la Libia, dato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non è riuscito a partorire una risoluzione di condanna del regime di Assad, ma si è fermato a una semplice dichiarazione, nonostante il numero delle vittime abbia raggiunto, secondo alcune stime, quota 2000. Libia e Siria, due punti estremamente caldi e peraltro, va ricordato, vicini a noi, vicini all'Italia, e quindi in cui comunque dobbiamo giocare un ruolo, e il ruolo in Libia per ora è stato comunque in qualche modo discutibile. Torniamo alla crisi economica, il Sole 24 Ore, il peso dei tagli sullo sviluppo, liberare risorse per investire, questo è il commento del vice direttore Fabrizio Forché. Vediamo che proprio nella conclusione un po' una panoramica di quello che si può fare, quello che il governo dovrebbe, potrebbe fare per arrivare appunto ad affrontare in maniera concreta questi squilibri e questa crisi. L'obbligo di pareggio in bilancio in Costituzione è un passo non sottovalutabile, ma ora bisogna dimostrare di saper incidere sulla spesa pubblica, di saper ridurre il perimetro dello Stato anche a costo di imporre duri sacrifici al Paese. È il commento di Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore. Non si tratta di colpire servizi essenziali, ovviamente, ma davvero non si capisce perché in Italia si debba continuare ad andare in pensione a 60 anni quando in altri paesi europei ben più solidi del nostro l'età pensionabile è già stata portata a 67 anni. È oltre un decennio poi che si parla di risparmiare attraverso gli acquisti centralizzati della pubblica amministrazione, ma poi ogni ministero, se non ogni dipartimento o direzione centrale, continua a fare da sé vanificando gli obiettivi di bilancio. La sanità non va tagliata, ma va certamente razionalizzata, soprattutto nel mezzogiorno, dove il trade-off tra spesa e servizi è inaccettabile per un paese civile. E ancora è il commento di Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore: il pubblico impiego non può restare l'unico segmento dell'occupazione italiana a non risentire della crisi in termini di retribuzioni e posti di lavoro. E per finire, i costi della politica. Il taglio simbolicamente più importante, il primo da fare per rendere accettabili tutti gli altri. Non sono scelte facili, ma al punto in cui siamo arrivati non ci sono alternative. I tagli di spesa vanno fatti e subito, perché solo in questo modo si potranno liberare le risorse necessarie agli investimenti, alla crescita. Qualunque alternativa sarebbe più dolorosa, come dimostra il dibattito sulla patrimoniale. È il commento di Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore, sulle ipotesi appunto e sulle possibilità che il governo ha di fronte per arrivare a una soluzione della crisi. Sullo stesso tema appunto anche gli altri giornali, vi segnalo un commento di Ivo Diamanti sulla Repubblica, che dà un quadro un po' più diciamo sociologico alla situazione italiana. L'arte di arrangiarsi non ci salverà. Diamanti ricorda come in passato l'Italia ha anche superato momenti difficili, momenti di emergenza, momenti di particolari difficoltà, le ha superato grazie anche al fatto di aver saputo trovare una coesione sociale, una coesione tra le diverse anime della società. Ora è difficile, dice Diamanti, difficile in queste condizioni rilanciare la crescita, abbassare il debito pubblico, imporre il pareggio di bilancio, anche se venisse imposto per legge, anche con norma costituzionale. Eppure questo modello in passato ha funzionato, già, dice Diamanti, in passato, quando eravamo più poveri, quando dovevamo conquistare il benessere e un posto di riguardo nella società, per noi e i nostri figli, quando la nostra economia e il nostro paese dovevano guadagnare peso e credibilità sui mercati e nelle relazioni internazionali, a dispetto dei sospetti e dei pregiudizi nei nostri confronti. Ma oggi non è più così, non abbiamo più la rabbia di un tempo, semmai la esprimiamo nei confronti dello Stato e degli altri, gli stranieri, in generale verso gli altri italiani, sempre più stranieri ai nostri occhi. Ed è ancora Ivo Diamanti. Poi soprattutto è da 20 anni che il localismo, il familismo e il bricolage sono andati al potere, interpretati dal partito delle piccole patrie locali, nord-est, nord, regioni, città e quant'altro, e dal partito personale dell'imprenditore che si è fatto da sé. È da 10 anni almeno che lo Stato è stato conquistato da chi considera lo Stato un potere da neutralizzare, da chi ritiene le tasse e le leggi degli abusi. È da 10 anni almeno che il pessimismo economico è considerato un atteggiamento antinazionale, un sentimento esecrabile che produce crisi. È da 10 anni almeno che tutto va bene, l'economia nazionale funziona, la disoccupazione è più bassa che altrove, non importa se è sommersa nell'informalità. Ecco, questa era l'analisi di Ivo Diamanti, la situazione, le prospettive secondo Diamanti e anche il sentimento degli italiani in questo periodo è cambiato anche per effetto della politica, per effetto di una politica che non ha creato le condizioni per una, per quella coesione sociale che un tempo appunto aveva spinto l'Italia alla ricostruzione. Quali proposte concrete allora per superare questa crisi? Quello in cui tenta di intervenire Piero Stellino sul Corriere della Sera, 4 proposte liberali, cambiare lo Stato, l'economia riparte. Stellino ricorda il ruolo dei liberali italiani, Einaudi, Pantaleoni, Pareto, degli anni passati nell'elaborare delle teorie e nell'intervenire anche politicamente. E allora dice cosa possono insegnare, cosa può insegnare il liberalismo del passato alla situazione attuale. Se il problema è politico, non economico, la soluzione non può che essere politica, afferma Ostellino. È la natura dello Stato che deve cambiare. Proviamo a proporre qualche soluzione. Primo, mettendo in vendita il patrimonio dello Stato e privatizzando alcuni servizi pubblici per reperire risorse sul mercato. Secondo, deregolamentando la pubblica amministrazione e liberalizzando il mercato degli ordini professionali e il diritto societario e le relazioni industriali per consentire alla società civile di operare in un quadro normativo che riduca le occasioni di corruzione, contenga il familismo amorale e il clientelismo, impedisca gli abusi, massimizzi al tempo stesso le libertà individuali, il merito, la propensione a scommettere e a intraprendere. Terzo, e ancora Piero Ostellino sul Corriere della Sera, riformando le procedure, accelerando i tempi di attuazione della giustizia civile per trasformarla da un disservizio quale ora in un servizio, sia nelle controversie di parte sia nelle discussione dei crediti, di servizio che oggi scoraggia gli investitori esteri. Razionalizzando i compiti della giustizia penale, la cui tendenza è stata a volte persino quella di condizionare le libere transazioni di mercato in base a considerazioni politiche, se non a duratura clientelari. Quarto, eliminando quelle normative illiberali, anche recentissime, da antico regime o da paese di socialismo reale che appesantiscono i rapporti del cittadino con lo Stato e gli rendono difficile la vita. Si tratta, conclude Piero Ostellino sul Corriere della Sera, di ridurre l'eccesso di intermediazione pubblica che oggi accresce i costi delle stesse transazioni private, di contenere entro limiti di ragionevolezza i costi dello Stato, infine di portare la pressione fiscale a un livello che persino la dottrina sociale della Chiesa suggerisce di non superare. La crescita, se c'è più Stato dove è necessario, se c'è più società civile dove è possibile, se ci sono maggiori libertà per tutti nel rispetto delle libertà di ciascuno, più soldi nelle tasche di chi poi li spenderà facendo ripartire i consumi o li investirà aumentando la produzione. Era, diciamo così, il manifesto di Piero Ostellino sul Corriere della Sera, la necessità di liberare risorse, liberare il mercato, renderlo più efficiente, ridurre il ruolo dello Stato, in modo da dare maggiori risorse ai cittadini che le spendano in maniera più razionale. In primo piano, Rieccoci, buongiorno ancora da Gianfranco Fabi. Parliamo appunto delle prime pagine dei giornali. Parlavamo della crisi economica, dell'attesa per gli effetti degli interventi della BCE e per le ricadute del downgrading del debito americano. Proprio guardando alla crisi, direi si possono sottolineare due commenti. Uno che parte dalla crisi e un altro che parte dalla vicenda di San Patrignano, dove sta avvenendo un avvicendamento nella direzione con l'uscita di scena del figlio di Vincenzo Muccioli, ed è il leader, il fatto di quanto conti il leader. Proprio l'articolo di fondo del Corriere della Sera, che prende spunto dalla crisi economica e finanziaria, è di Alberto Lesina e parla di in cerca di leader, sottolinea la mancanza di leadership nel mondo attuale, e scrive Lesina in conclusione del suo articolo: i grandi leader si vedono nei momenti difficili, non quando tutto è facile, per cui un'ordinaria amministrazione è sufficiente. Infatti una delle doti di un grande politico è quella di saper smussare i contrasti e dirigere un paese in una direzione precisa, mettendo il bene comune al di sopra degli interessi di parte in un momento di crisi. Se qualche leader odierno c'è riuscito, batta un colpo. Io non ne vedo, compreso Silvio Berlusconi. La mancanza di leadership e di idee anche nell'opposizione è scoraggiante. In Europa i leader dei paesi a rischio non hanno trovato di meglio che accusare i tedeschi per nascondere le loro manchevolezze. I francesi hanno cavalcato questi sentimenti, visto che il deficit pubblico francese fa paura, e prima o poi i mercati se ne accorgeranno. La Merkel ha dimostrato di capire poco i mercati finanziari e le sue prese di posizione erratiche non hanno aiutato. Negli Stati Uniti è ancora Alberto Lesina che scrive sul Corriere della Sera: l'atteggiamento anti-business e populista del presidente, di Nancy Pelosi, e l'estremismo dei Tea Party hanno indebolito quell'ala moderata dei nuovi democratici di Bill Clinton e dei repubblicani del nord-est, laici e liberisti. Insomma, conclude Alberto Lesina, ridateci Einaudi, De Gasperi, Thatcher, Reagan, Clinton, Blair e Kohl prima che sia troppo tardi. E sul fatto che sia finita l'era dei grandi leader, dei carismatici, prende spunto Francesco Grignetti sulla Stampa, però partendo da San Patrignano. Finita l'era dei carismatici, quegli uomini soli al comando a cui affidare il proprio futuro. Così siamo affannati a seguire le montagne russe del berlusconismo, portatori di un carisma indubbio seppur atipico e ormai in caduta libera. Ci eravamo talmente convinti che il nuovo secolo sarebbe segnato da nuovi astri carismatici come Obama, che poi sono durati un amen. Pensavamo che alcune grandi figure alla Putin fossero eterne, e non era così. Ci siamo distratti. E questo Francesco Grignetti sulla Stampa. Intanto finivano a pezzi i vecchi carismi, i santoni che andavano tanto di moda solo qualche anno fa. Non è solo questione della defenestrazione di Muccioli Junior da San Patrignano dopo 16 anni al comando, oppure la caduta rovinosa di Don Germini o la fine di Don Verzé, è che la società televisiva e atomizzata è già oltre, non gradisce più. L'uomo della provvidenza a cui fidarsi ciecamente è roba di ieri, sono in declino anche le sette religiose. E secondo Francesco Grignetti, in questo articolo della Stampa, c'è questa crisi di leadership che deriva anche da una diversa visione della società, da una diversa visione di come si ha, della necessità che si hanno di guida anche in una società che è sempre più atomizzata, sempre più divisa, anche per effetto, non dico per colpa, per effetto della televisione. Un paese senza è in prospettiva più o meno simile l'analisi di Luca Ricolfi, sempre molto puntuale sulla Stampa. Il nostro guaio, sfortunatamente, è che questa opposizione, qui ovviamente il riferimento a quanto sta avvenendo in Italia con le misure del governo e la posizione dell'opposizione che ha chiesto al governo un passo indietro a Berlusconi, ecco quanto sta avvenendo in Italia, e questa è l'osservazione di Luca Ricolfi. Il nostro guaio è che questa opposizione, che queste opposizioni non sono la soluzione, ma una parte del medesimo problema. È almeno due anni che l'opposizione è convinta dell'inadeguatezza di questo governo, ma neppure in un tempo così lungo è stata in grado di approntare una diagnosi condivisa e una terapia credibile. È scoraggiante in questi giorni leggere sui giornali la cacofonia di valutazioni e di proposte che arrivano da ogni angolo del cantiere delle opposizioni. È ancora più scoraggiante la genericità, per non dire il vuoto spinto, dei documenti delle parti sociali. La realtà è che nessuno oggi è in grado di dire se le attuali opposizioni sarebbero capaci di formare un governo, e tantomeno che cosa un tale governo ci risolverebbe, al di là delle solite chiacchiere sui costi della politica, lotta agli sprechi, contrasto all'evasione fiscale. Eppure il rebus è chiaro: se non vogliamo essere essere in balia dei mercati, bisogna trovare 50 miliardi di euro, più tasse o meno spese. E inoltre bisogna trovarli senza provocare né una recessione né una rivolta sociale. Ecco perché penso che il rebus sia insolubile, e conclude così Luca Ricolfi sulla Stampa. Un'impresa come quella, oggi richiesta dall'Italia, potrebbe tentarla solo una classe dirigente credibile, dove per credibile non intendo solo un po' meno corrotta e squassata dagli scandali, ma soprattutto più lucida, più unita, più coraggiosa, meno ossessionata dalla ricerca del consenso a breve termine. L'immobilismo e l'impotenza di Berlusconi, conclude Luca Ricolfi, sono diventati il problema dell'Italia, ma la tragedia del paese è che le opposizioni non hanno usato il lungo tempo del crepuscolo berlusconiano per diventare esse la soluzione che il paese attende. Diciamo che questo commento di Luca Ricolfi non brilla per ottimismo, non brilla per dare una speranza di soluzione, però brilla sicuramente per mettere lucidamente in luce il problema, un problema che non può essere risolto solamente attraverso l'imposizione di misure, ma attraverso, se vogliamo mettere insieme un po' i commenti dei giornali di oggi, abbiamo letto i Vodiamanti prima per esempio, anche attraverso un consenso sociale con una nuova coesione verso le cose da fare. Questo forse superando anche i vecchi schemi tra sinistra e destra, tra maggioranza e opposizione, in un momento difficile forse bisognerebbe fare qualcosa che faccia fare un salto di qualità anche alla stessa politica. Al di là della crisi economica ci sono alcuni però ricadute sul fronte di che cosa fanno le famiglie per rispondere alla crisi economica, su cosa possono fare i risparmiatori in particolare per cercare di limitare i danni. In questo senso si tratta di limitare i danni, e qui il Sole 24 Ore mette in luce come sia in fondo difficile anche per i risparmiatori cercare di affrontare la situazione, e osservando appunto i dati sui depositi, dove come vi dicevo all'inizio i depositi soffrono in mezzo Italia, mette in luce il Sole 24 Ore, a Crotone il calo peggiore tra i migliori Rimini, L'Aquila e Biella. Ecco, c'è un commento di Fabrizio Galimberti, il quale osserva come le decisioni di investimento siano in fondo prudenti, le famiglie investono in titoli pubblici e più che negli altri paesi in quel moderno equivalente dei soldi sotto il materasso che sono i depositi bancari. Dall'interessante disaggregazione geografica di questi depositi bancari in Italia, che ne analizza l'andamento degli anni cruciali della grande recessione, emerge che nel complesso i depositi bancari in valore reale siano cresciuti del 4,5% dalla fine del 2007 a maggio del 2011, mentre il PIL reale, il prodotto interno lordo, è diminuito. Le famiglie, insomma, almeno a giudicare dall'andamento dei depositi, hanno risparmiato in questi tempi difficili, un comportamento da buon padre di famiglia. E sul Sole 24 Ore, per chi volesse, c'è anche un'interessante pagina dedicata a un investimento in fondo alternativo, viene giudicato un bene rifugio, è quello dell'oro. Che cosa fare per chi vuole acquistare oro? È possibile farlo del tutto legalmente, è possibile comprare delle monete, è possibile comprare dei lingotti, è possibile comprare dei titoli, come e quando, ecco i consigli del Sole 24 Ore. Concludiamo perché c'è già Irene Zerbini che bussa alla porta con i suoi programmi, segnalandovi il pubblico e privato di Francesco Alberoni, tutto in ferie a Ferragosto per abitudine, ma non solo. Nonostante si parli da anni di ferie scaglionate, nonostante siano stati imposti dei turni per i servizi essenziali, di fatto la maggior parte delle persone che possono permettere prendere ferie a Ferragosto. A uno chiudono tutti i negozi, i ristoranti, le edicole, i cinematografi, i parrucchieri, i benzinai, perché diminuiscono i clienti. E Francesco Alberoni si chiede: è sufficiente l'abitudine a spiegare spese più elevate per una maggiore scomodità? Personalmente sono sconvinto che agisca un altro fattore, la tendenza degli esseri umani a riunirsi, a raggrupparsi. La gente va dove c'è altra gente. Fuggiamo dalle code del traffico in città, e questo lo aggiungo io, per cercare le code del traffico nei centri di vacanza. E per cercare i giornali, Svela il segreto di dove siamo andati questa mattina io e te a cercare questi quotidiani con tutte le edicole chiuse. Bisogna essere bravi a cercare, come Segugi della Milano, che ormai questa settimana scorsa era un po' affollata, ma questa settimana appare molto più tranquilla, almeno da lunedì mattina. Lo so Gianfranco, però purtroppo torneranno, quindi è inutile che continui a sperare. Godiamoci questa Milano così bella, così struggente, adesso che si svuota. Torneremo a parlare nel corso della giornata di una polemica che in questi giorni ha incendiato gli animi, sembrava quella tra Abbatantuono e la Lega, ma fa da scenario, semplicemente è una sorta di sottofondo a un dibattito che è passato un po' in tono minore e che meriterebbe invece qualche osservazione. Si parte da dati Istat: 350.000 stranieri ogni anno entrano in Italia. E contestualmente però, sottolinea l'Istat, si sono persi, diciamo così, giovani italiani. I giovani italiani dai 25 ai 30 anni si sono ridotti di 2 milioni nel biennio 2009-2010 rispetto al biennio precedente. Di conseguenza l'arrivo degli stranieri serve a coprire quel buco di 500.000 giovani che ogni anno manca nel mercato del lavoro a causa del dimezzamento delle nascite. In che settori? Soprattutto agricoltura, allevamento, pulizia, ristoranti, commercio, servizi alle famiglie. Questi dati tra l'altro concordano anche con rilevazioni fatte da altri istituti demoscopici. E dunque esiste una sorta di mercato del lavoro doppio. Di questo parleremo nel corso di 24 mattino, proprio stimolati dal film di Abbatantuono, Cose dell'altro mondo, alle 8:30. 24 mattino estate con Irene Zerbini. E ben ritrovati, stanno parlando in tanti, questa volta ha deciso di parlare lui, Diego Abbatantuono, protagonista di questo film ormai controverso, Cose dell'altro mondo, risponderà tra poco su Radio 24 alle polemiche che sono dilagate in questi giorni dopo la pubblicazione del trailer della pellicola, va detto solo il trailer, in quanto il film uscirà il 3 settembre. Potete partecipare anche voi, è il momento di ricordare i numeri per le vostre interazioni, per il telefono 800 24 00 24 e per i messaggi SMS 349 238 6666. Tra poco Visti da fuori. Visti da fuori. Chi ci guarda da fuori? Soprattutto loro, coloro che lavorano qui, vivono qui, hanno il compito di raccontare il paese a casa dei lettori che sono portatori di una cultura completamente diversa, spesso dei pregiudizi addirittura sull'Italia, che hanno dei modi di vita completamente diversi. Sono i corrispondenti stranieri. L'appuntamento per oggi è con una giornalista australiana, vive a Roma e da 30 anni gira il mondo raccontandolo. Si chiama Josephine McKenna, welcome. Grazie, buongiorno. Buongiorno Josephine, naturalmente un grande piacere sentirla questa mattina. Vorremmo sapere soprattutto cosa ha segnalato ultimamente agli australiani, quali notizie ha segnalato dall'Italia? Sto scrivendo alcune cose ovviamente sull'economia, sul premier, Silvio Berlusconi, anche tutte le altre cose bellissime dall'Italia, l'arte, cultura, gastronomia, turismo, c'è un sacco di cose che si può... Citane una, Josephine. Ovviamente in questi mesi abbiamo scritto molto sul premier, del leadership, dello scandalo del Bunga Bunga. Ma per me mi piace moltissimo scrivere sull'archeologia. Ho scoperto tutte le rovine a Roma e per me è una passione molto forte. Chiaramente ci sono le passioni personali del giornalista che in qualche modo ne orientano anche il lavoro. Dal punto di vista australiano, quali sono i personaggi più noti dalle tue parti? Italiani, stesso... naturalmente, ti sto chiedendo. Esatto, chi sono? A parte esatto. Adesso hai citato il Bunga Bunga, hai citato Berlusconi, queste sono notorietà recenti. Sì, e prima? Sì. Tutti conoscono Silvio Berlusconi, ma i nomi famosi come Andrea Bocelli, Riccardo Muti, Sofia Loren, nel campo di moda i grandi come Giorgio Armani, Valentino, Dolce Gabbana, ma gli australiani siamo impazziti dello sport e tutti conoscono Francesco Totti, Valentino Rossi e anche Federica Pellegrini, per esempio. Devo dire, prima della morte dei miei genitori loro avevano una passione grande per Bocelli e prima della morte hanno richiesto che noi suoniamo la canzone Con te partirò ai loro funerali, e secondo me questo è un esempio della cultura italiana che voi avete esportato in tutto il mondo. E questo è un legame emotivo con questo paese, immagino per te decisamente forte, decisamente sì, cruciale. Ha determinato la tua scelta di venire a vivere in Italia? Per me è una passione da 30 anni. Sono venuta in Italia 30 anni fa per la prima volta, esattamente in agosto 1981. E mi sono innamorata immediatamente. Dell'Italia? Sì. Dell'Italia, sì. E la cosa più di tutti gli altri era l'umorismo. E non so se si può trovare questa cosa molto in questi giorni, ma l'umorismo in questa epoca per me era molto profonda. Ti ha affascinato. E qual è il più grande cliché sugli italiani che è diffuso in Australia, che quando torni nei tuoi viaggi devi, non voglio dire allontanare o cancellare, ma magari devi aggiungere delle precisazioni? Non ho capito molto bene. In Australia. In Australia ci sarà un cliché sugli italiani. Secondo te qual è il più grande equivoco che gli australiani masticano sugli italiani? Posso chiedere in inglese perché non ho capito abbastanza bene. Josephine, we are talking about the cliché about Italians. Cliché. Ah, yeah. Ok. So when you go back. Oh, okay. Ma I'm sure you discuss about that with your friends and family, right? Ma ci sono tanti cliché degli italiani, ma anche. Ma ce n'è uno che ti infastidisce in particolare? No. In generale ci sono anche emigrati in Australia e per questa ragione ci sono cliché in Australia degli italiani. Barzellette degli italiani che vendono la frutta o la verdura, eccetera, ma degli emigrati, perché avevamo emigrati che sono venuti in Australia 50 anni fa, ma adesso gli italiani, per esempio, sono proprio australiani. Completamente integrati, quindi. Sì, devo dire di sì. E questo ha contribuito naturalmente a diminuire anche questa dose di cliché che in genere c'è in giro per il mondo, per noi che abbiamo non solo viaggiato ma abbiamo esportato 60 milioni di persone. Se tu dovessi portarti a casa in Australia qualcosa dall'Italia, cosa sceglieresti? Oh, una borsa. Un oggetto, no, quindi. No, abbiamo un'ammirazione per il cibo, i vini, ma non posso portare tanti vini in aereo, purtroppo. La qualità, i vestiti, le borse, le scarpe, tutte le cose della moda sono bellissime. È difficile trovare qualcosa perché ci sono tante cose che voglio portare in Australia. Grazie Josephine McKenna, ancora una volta il Made in Italy che ritorna imperante nei discorsi anche di coloro che vivono qua da 30 anni come lei. Josephine McKenna è una giornalista australiana freelance, oggi è stata protagonista del nostro Visti da Fuori. Tra poco protagonista sarà Diego Abatantuono e non solo, l'abbiamo raggiunto e abbiamo fatto una chiacchierata con lui venerdì per capire come mai questo film, che ancora non è uscito, avesse scatenato già tante polemiche. Si intitola Cose dell'altro mondo, il regista è Francesco Patierno e in questi giorni la pubblicazione del trailer che descrive una società veneta completamente in tilt dopo l'improvvisa scomparsa di tutti gli stranieri extracomunitari ha suscitato l'ira della Lega, perché Abatantuono interpreta un imprenditore, secondo i leghisti razzista, che dagli studi della sua TV privata predica contro gli immigrati. E lui ci ha fatto qualche precisazione, la sentiremo tra pochissimo. 24 mattino estate. Pronto, buongiorno innanzitutto Diego Abatantuono. Buongiorno, buongiorno e grazie che mi avete chiamato, buongiorno. Difficile fare l'accento veneto? Ma per me no, non è difficile perché ho vissuto tanti anni in Veneto, cioè ho lavorato con dei miei amici che si chiamavano e esistono ancora fisicamente, non più il gruppo, i Gatti di Vicolo Miracoli. E ho passato gli anni dell'adolescenza, ho avuto un paio di fidanzate, le prime, che sono molto importanti. E questo mi ha permesso di imparare un po' il Veneto, visto che ho vissuto molto a Verona e conosco il Veneto e conosco i veneti. Qual è il più grande merito di questo film, secondo lei, Diego? Tanto bisogna che lo veda la gente e il merito lo darà il pubblico, perché da io che l'ho fatto, che do un merito a una cosa che ho fatto io, non è molto elegante. Mi sembra comunque il merito posso darlo alla tematica che affrontava, ed è il motivo per cui ho accettato di fare il film, che veniva affrontata una tematica importante in maniera molto divertente, molto leggera, con un po' di cinismo, che è un tipo di umorismo che mi si addice, mi piace quel tipo di cinema. Il motivo per cui faccio questo mestiere, perché ho visto i film di Scola, di Monicelli, di Risi, di Petri, ed è proprio quella tematica lì. Questo copione, quando l'ho letto, mi ricordava un po' Signore e Signori, che era un grande film, un pochino, facendo per esempio molto illustri, dico Miracolo a Milano, perché c'era un po' di surreale, di fantasia, di magia. Cari ascoltatori, eccoci qua. Vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare. Conviviamo con i fondamentalisti islamici, con i fancazzisti albanesi, con i zingari. Prendete il cammello e tornate a casa! Apocalypse Now! Vadim? Mariola, posto il casino. Che tu c'è Miguel? I centralini del comune sono stati subissati di telefonate fin dalle prime ore di questo mattino. Siamo in guerra, non ha sentito! Molti bar e ristoranti chiudono per assenza di personale. Volevo chiederlo. No, neanche per lei, guarda, la faccio la badante io. Ed eccoli qua alcuni stralci del film, li avete sentiti? Un trailer breve, come tutti i trailer, ma che è bastato ad accendere addirittura interrogazioni parlamentari. Questo a prova che i nostri politici comunque lavorano anche ad agosto. E si è chiesto da parte della Lega dove stia il valore culturale di questo film. Si intitola Cose dell'altro mondo e uscirà il 3 settembre. Dove sta il valore culturale di una pellicola di questo genere? Sono molti i commenti anche indignati sul Facebook di 24 Mattino. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Sembra valere per tutti tranne che per gli immigrati, ci scrive un ascoltatore, ascoltatrice, di cui la nostra nazione, la nostra civiltà sembra, a detta di alcuni, incapace di vivere senza. E c'è chi parla invece dalla fronte opposto, come Domenico: gli immigrati sono necessari, fosse anche solo per far aprire gli occhi agli ottusi nostrani. Ma al di là delle polemiche, poi continueremo la conversazione anche con Diego Abatantuono, lui dice: ho accettato di fare il film per la tematica, mi sembrava importante, e la tematica è soprattutto di natura economica. Forse c'è un grande equivoco sul perché l'Italia si stia riempiendo, a detta di molti, di immigrati. Per capirlo abbiamo scomodato un economista che ringrazio, un ingegnere, ex direttore di Nomisma, l'Osservatorio di Fenomeni Economici e Sociali. Lui si chiama Nicola Cacace, questa mattina è con noi. Buongiorno e benvenuto, professore. Salve, buongiorno. E perché gli stranieri sono in Italia, secondo lei? Adesso sembra una domanda molto banale, ma c'è una spiegazione che non viene mai citata. C'è la spiegazione semplicissima che i paesi che hanno avuto il calo demografico più alto del mondo, tra cui tra i più grandi ricordiamo Italia e Spagna, sono i paesi che negli ultimi 10 anni hanno avuto un ingresso di stranieri più alto del mondo. C'è una correlazione netta, c'è un buco demografico, cioè in questo paese dal 75 ad oggi, dopo il 75, le nascite si sono dimezzate. E allora? E dunque? E quindi dopo 25 anni, quando nel 95-2000, che per ogni 10 sessantenni che escono da al mercato del lavoro, ci sono solo 5 giovani che sono nati 20 anni fa, c'è una domanda. E infatti è il motivo per cui il Veneto e la Lombardia sono le regioni italiane a più alta incidenza di stranieri, e per un fatto semplice: sono regioni a più alto buco demografico, perché facevano sempre meno figli agli altri, ma soprattutto sono regioni ad attività economiche molto importanti, quindi agricoltura, allevamento, costruzioni, turismo, badanti, eccetera, per cui queste due regioni sono anche quelle giusto che hanno richiamato, che l'hanno chiesto loro e che hanno occupato questi stranieri. Scusi, nel 2010 l'occupazione in Italia è scesa di 583.000 unità, cioè si sono persi i posti di lavoro. Sì, ma qui bisogna spiegare, ormai qui in Italia c'è un doppio mercato del lavoro, c'è il mercato del lavoro per i nostri figli, per gli italiani, e c'è un mercato del lavoro alla cui domanda rispondono soltanto gli stranieri, in agricoltura, nelle costruzioni, non parliamo delle badanti, nel turismo, nelle società di pulizia, nella sanità. Se uno c'ha bisogno di una persona, a questa domanda di lavoro rispondono solo gli stranieri. Cioè lei dice sono disponibili posti di lavoro qui che non sono appetibili per gli italiani, no, e quindi sono aumentati. Allora io le ho letto il dato di 583.000 unità. Sì, le volevo chiarire. Lei dice negli ultimi due anni dalla crisi in poi l'occupazione italiana è calata drasticamente. Di 500.000, sì. Però attenzione, questi meno 500.000 totali sono fatti da meno 800.000 italiani e da più 300.000 stranieri, perché l'Italia è un paese a bassa innovazione, quindi non crea un numero di posti di lavoro sufficiente per i giovani italiani che sono diplomati, almeno diplomati quasi tutti quanti, e che rifiutano questi lavori, che non li cercano, che cercano di non fare, al massimo emigrano, i più bravi che non trovano lavoro in questo paese, perché è un paese che ha bassa innovazione, quindi c'ha poche attività creative, c'ha poche attività qualificate, per cui c'ha una domanda di lavoro scarsa per i nostri figli, che sono quasi tutti diplomati, e c'è una domanda di lavoro normale, che continua a esserci, per i lavori umili, a cui rispondono solo gli stranieri. Questa è la realtà, perché l'Istat chiarisce questo fatto, cioè questi meno 500.000 occupati sono fatti da dei due anni di crisi, sono fatti da meno 800.000 occupati italiani e più 300.000 stranieri. Certo, lei sta parlando del biennio, è chiarissimo questo dato, e quindi noi esportiamo tra i 30 e i 40.000 laureati ogni anno, e tra l'altro anche questo è un dato. Laureati e diplomati, cioè 30-40.000 giovani italiani che con un titolo di studio superiore, con un diploma, perché non trovano lavori qualificati in questo paese che non finanzia, professore, ricerca, innovazione, scuola, non crea un numero sufficiente di lavoro per i nostri figli. Esatto, e questo anche è un altro dato che farebbe suonare qualche campanello d'allarme, visto che all'estero ci sono agenzie preposte per ripescarli, coloro che sono andati fuori a portare il loro talento e il loro ingegno, per ripescarli e riportarli a contribuire all'economia nazionale, alla propria innovazione. Noi ancora questo non lo facciamo, ma sentiamo anche le vostre opinioni. 800 24 00 24. Buongiorno a Luciano da Firenze. Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Il professore ha dato dei dati molto interessanti, ma valutati asetticamente. In realtà l'immigrazione in Italia ha vari aspetti. C'è l'immigrazione nel nord, dove si raccolgono le mele e si viene assicurati, o come badanti, dove si viene assicurati e probabilmente si è in regola con contributi e normative. E c'è l'immigrazione del sud, nei quali gli immigrati servono soltanto per riuscire a mantenere dei prezzi bassi, prendono 20 euro al giorno per poter mantenere l'agricoltura. Anche meno. Luciano, lei ha messo il dito in una piaga molto importante. Invito tutti a essere molto telegrafici per poter avere il maggior numero di contributi possibili. Sergio, buongiorno. Buongiorno, niente, mi riallaccio un po' a quello che ha detto credo l'ascoltatore precedente. Le ragioni secondo me che inducono a non accettare determinati tipi di lavoro da parte degli italiani non sono tanto il tipo di lavoro, ma le modalità con cui viene o retribuito o le condizioni. Cioè lei dice che non è la tipologia, è proprio la paga. No, assolutamente no, perché io è proprio lo sfruttamento. Esatto, se ci fossero condizioni paritarie di trattamento, eccetera, quindi migliorative anche per gli stranieri, a quel punto la concorrenza sarebbe alla pari. E quindi quello è il correttivo che lei suggerisce. Grazie. Esatto. A Sergio da Milano. Buongiorno a Carducci. Si è presentato. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono un insegnante di lettere. Insegno in un istituto professionale della Bassa Reggiana e ho all'interno delle mie classi dal primo anno al quinto anno molti alunni stranieri oltre che alunni italiani. Ecco, io sottolineo un aspetto che nella scuola è un aspetto nuovo in senso positivo, perché all'interno di un istituto professionale gli italiani magari che si iscrivono considerano la scuola professionale come una scuola di categoria B rispetto ai licei, e qui invece questi ragazzi stranieri che provengono dal Pakistan, dall'India, dall'est dell'Europa, dalla Cina, dal Sud America, dal Nord Africa, sono questi quei ragazzi che io ho nella mia scuola. Ecco, questi ragazzi che sono figli di quelli che fanno nel settore sociale badanti, nel settore agricolo dell'allevamento i cosiddetti mungitori di vacca, quelli che lavorano nei cantieri, ecco questi figli, no? I figli di questi genitori che accettano questi lavori così umili, ben volentieri si iscrivono in un professionale che, come il mio, dove insegno io, che ha un indirizzo commerciale, aziendale. Che percentuale di stranieri ha a questo istituto, diciamo, tecnico? Che, sì, è una percentuale alta, sono circa il 70% degli studenti è straniero. Quindi... Ecco, allora, professoressa Fernanda Carducci, contribuiamo anche a sfatare un altro mito. Il curriculum, cioè la qualità dell'insegnamento, viene svilito da quest'alta percentuale di stranieri? No, assolutamente no. Perché il timore di molte mamme, di molti genitori italiani. Certo, certo, lo so. Questi sono i soliti pregiudizi che purtroppo sono a volte radicati in una mentalità italiana che considera la scuola ancora a livello settoriale e non una scuola che insegna, ecco, oltre ai saperi, diciamo, delle varie discipline, anche a integrarsi, a socializzare, a creare insomma una società nuova. Certo, e questo è molto importante, ma voi professori trovate difficoltà in classe no, o viceversa siete gratificati per quello che fate? Diciamo che è tutta una questione di una didattica nuova che piano piano nel nostro istituto, visto che la cultura ormai è multietnica, noi adeguiamo il metodo, diciamo, di insegnamento, i programmi, gli strumenti a questa società multietnica che vede però un'integrazione forte tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri. Grazie. Professoressa, rimanga con noi le informazioni sul traffico e torneremo tra pochissimo per continuare la nostra discussione. 349 238 6666 per i vostri sms. 24 mattino estate. 48 minuti trascorsi dopo le 8 è una discussione quella sollevata dal film Cose dell'altro mondo, che è passato un po' sotto traccia, nel senso si è messo in primo piano il litigio tra Battantuono e la Lega, anche se l'attore ha ribadito ai microfoni in Radio 24 non c'era nessuna intenzione polemica da parte sua. La Lega invece si è sentita offesa, si è sentita denigrata la cultura veneta, almeno così è stato interpretato questo personaggio che campeggia nel film. In realtà non c'era l'intenzione di aprire questo filone polemico, ha detto l'attore. Io ho accettato di interpretare questo film proprio perché toccava una tematica importante. E gli abbiamo chiesto naturalmente se fosse intenzionale la scelta del Veneto, se fosse intenzionale la scelta del personaggio televisivo, del padrone della piccola televisione locale, se fosse stato ispirato da qualcuno realmente vissuto da un personaggio vero, perché c'è stata anche questa polemica a margine, l'intenzione di denigrare una persona. Secondo coloro che hanno proposto il film e hanno scritto la sceneggiatura, l'obiettivo di questa polemica non era in realtà questo imprenditore veneto, ma il film sarebbe stato ispirato da un imprenditore lombardo. Poi è stato girato in Veneto perché la regione dove sono presenti il maggior numero di immigrati con il permesso di soggiorno, quindi regolarizzati. Ma sentiamo cosa dice Abatantuono. Premetto, io faccio l'attore in questo film e eseguo, cioè la sceneggiatura l'hanno scritta altri, io poi ho messo a posto dal punto di vista del linguaggio veneto le cose che dico io, ma la tematica è quella che ho trovato scritta e peraltro ho accettato di fare il film. Quindi ritengo che la paura della gente che arriva non si possa avere, bisogna avere la percezione che la gente arriverà per forza e quindi gestire in maniera più civile possibile. È ovvio che nella quantità arriva tutto, cioè come in Italia, nella quantità la qualità delle volte viene a mancare, ma non è certo discriminando che si risolvono i problemi, credo che solo integrando e andando incontro a quello che succederà inevitabilmente si possa risolvere il problema. Lì nel nostro film spariscono, però in realtà potrebbero scioperare, potrebbero fare tante cose, insomma, e quindi si creano dei grossi problemi, perché ripeto, come tutti noi sappiamo, ci sono in Italia mancano posti di lavoro, però ci sono dei lavori che gli italiani non vogliono più fare da tanti anni. Cioè io non credo che mia madre abbia lavorato tutta la vita perché io facessi un lavoro faticoso, particolare, cioè facessi il badante o andassi a portare in giro un furgone scaricando delle cose, nessuno dei nostri genitori ci ha spinto verso dei lavori umili. E questa è una cultura nostra, non è la cultura degli altri. Noi abbiamo cercato di fare in modo che i nostri figli non facessero questi lavori. E fortunatamente per un lungo periodo ci siamo anche quasi riusciti. E quindi sono arrivate delle altre persone a fare questi lavori che andavano fatti comunque. Che naturalmente gli italiani in giro per il mondo hanno fatto prima. Professor Cacace, si ritorna ancora una volta a questo mercato duale, mi sembra di capire. Cioè in Italia si riducono i posti di lavoro, sì, ma c'è un segmento però, che cresce. Sì. Mi faccia dire che su questa cosa della scelta del Veneto è una scelta che più azzeccata non poteva essere. Perché? Perché il partito più anti-immigrazione ha il peso più alto nel Veneto, prima di tutto, no? Infatti la Lega c'è il peso più alto, c'è la regione in cui il partito che più ha fatto polemiche contro gli immigrati è più forte, e la regione è nel Veneto. Secondo, il Veneto è una regione che ha attività economiche così in abbondanza prevalenti, quindi il combinato disposto, e poi aggiunga il buco demografico che è stato molto alto, diciamo, questo declino di nascita è stato molto alto, e quindi il Veneto era la regione più adatta per simboleggiare questo problema dell'immigrazione, in cui è un problema su cui gli italiani hanno. Professore, ma noi non vogliamo adesso entrare nelle scelte, nel merito artistico del film, perché a volte anche la scelta di Napoli Veneto, o della Veneto, Sicilia o della Basilicata o della Puglia in passato poteva essere, con le stesse argomentazioni, contestata e giudicata denigratoria, al punto da sollevare interrogazioni parlamentari come quella del deputato della Lega Massimo Bitonci, che ha chiesto al ministro di verificare il carattere culturale della pellicola. Chiudiamo questo aspetto perché ci porterebbe altrove. Dal punto di vista economico, esistono in Italia due mercati del lavoro? Esistono due mercati del lavoro, perché come diceva il primo degli intervenuti, i lavori cosiddetti umili, i lavori operai, cioè i lavori di bassa qualifica, negli ultimi 20 anni hanno aumentato le distanze di guadagno rispetto agli altri, cioè le paghe sono peggiorate molto più di quelle degli impiegati e i diritti di lavoro di queste qualifiche sono peggiorati, per cui aggiunga quello che giustamente diceva Cosa Abatantuono, cioè è che i nostri genitori hanno lavorato duramente per farci diplomare, quindi non è che ci manderebbero a scaricare cassette al mercato con piacere, né noi Però sono due elementi, lei dice, c'è una politica salariale anche che incide molto. C'è una politica molto. Salariale, c'è stato, cioè i dati dimostrano chiaramente che negli ultimi 20 anni... O meglio, anni, non c'è una politica salariale. Il divario di guadagno tra queste mansioni, tra queste qualifiche che noi chiamiamo basse operaie di basso livello e così guadagni invece medi sono aumentati, quindi c'è, questa forbice, c'è un incentivo ulteriore a fare questi lavori. Chiaro, il dato triste è che tra gli immigrati almeno 1 milione ha un titolo di studio superiore, dunque a loro volta. Certo, l'Istat ha dimostrato, cioè la cultura media di questi immigrati è nettamente superiore alla cultura media della nostra forza lavoro. Grazie al professor Cacace. Voglio chiedere alla professoressa dello IODI, dell'Istituto Superiore della Provincia dell'Emilia-Romagna, Carducci, questi stranieri, questi studenti che avete negli istituti tecnici sono all'80% stranieri, trovano facilmente un'occupazione? Sì, trovano un'occupazione perché le figure professionali, diciamo, dell'indirizzo di studio della nostra scuola fanno parte del tessuto socio-economico della Bassa Reggiana. Quindi nell'ambito amministrativo, nell'ambito turistico, l'Emilia Romagna, l'Emilia, la provincia di Reggio, con Reggio è anche città. Quindi non avete problemi di inserimento nel tessuto socio-economico? Ragazzi, sì, indipendentemente da ragazzi stranieri, anche ragazzi italiani, trovano da lavorare, certo nei periodi di crisi, la crisi diciamo che si sente un po' dappertutto, però i dati sono ancora positivi. Sono grazie, positivi. Grazie anche alla professoressa Carducci, purtroppo abbiamo anche tanti che bussano alla porta. Nel senso che avete telefonato, occupato le linee, continueremo la discussione sul Facebook di 24 Mattino, il tempo stringe. Abbiamo chiesto a Diego Abatantuono anche come ha reagito, come ha preso questa polemica sollevata dal film Cose dell'altro mondo, e l'attore non si è tirato indietro e ci ha spiegato ancora una volta perché questo film e perché il Veneto. Io sono assolutamente, a parte che io ho letto un po' di cose, ho guardato anche la quantità di contatti ed è veramente minima la parte la percentuale di gente che la vede in questo modo, sono molti di più quelli che la vedono in positivo, ma non c'è nessuna intenzione di diffamare i veneti. Vi faccio un esempio, io interpreto un personaggio scritto dagli sceneggiatori e da regista, e che loro probabilmente hanno preso spunto da qualcuno. Io non ho neanche voluto sapere di chi si trattasse, non ho minimamente, io non amo nel mio lavoro le imitazioni, quegli imitatori che dicono guarda che bravo, lo fa uguale, a me non mi piace. Mi piacciono i personaggi inventati, surreali, finisce con una grande umanità del personaggio che è proprio disperato, perché fra tutti quelli che sono spariti è sparita anche una nigeriana con la quale lui aveva un rapporto che non si era reso conto fosse più profondo di quello che pensava lui. Perché è un po' la tendenza degli italiani, vedono come stranieri sempre gli altri, ma non la propria badante, non la propria moglie, propri. Ma non si vedono neanche loro come stranieri, visto che siamo andati in giro per il mondo per 100 anni, dovunque, insomma, se tu parli, guarda, ci sono gli argentini su 3, 2 sono italiani, e in America ce ne sono tanti altri, insomma, in tutto il Sud America, in tutto il mondo, quindi voglio dire, non mi sembra normale pensare che potesse capitare a qualcun altro quello che abbiamo già fatto noi prima. Insomma, io poi credo che proprio io ho un particolare affetto per i veneti, torno a dire, sembra quasi di essere un po' lecchino, ma non è vero. Io ho accettato di fare il film proprio perché non giravamo là, perché ci sto bene, al di là del fatto che mi fanno bere un po' troppo, perché sono grandi, grandi, ottimi bevitori, per il resto non c'ho controindicazioni. E speriamo che anche questo non provochi un'interpellanza parlamentare. 58 minuti dopo le 8 da Irene Zerbini, l'appuntamento con 24 Mattina, domani alle 7:15.